Bene, siamo a Visionari, giovedì 5 settembre del 2013, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e da pubblicità, la voce dei senza voce. E chi vuole e chi se la sente, la voce di chi se la sente, può contribuire a farla vivere. Ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Per quanto riguarda Visionari, cominciamo con un po' di anticipo, perché ci sono ospiti in più che non avevamo previsto. I riferimenti li trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Troverete le uscite in sala di oggi, giovedì 5 settembre, gli ospiti di questa puntata, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana, questa volta in giro per l'Italia tra rassegne, proiezioni e festival, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, anche l'archivio del 2013 e 2012. C'è anche la nostra pagina Facebook di Visionari, appunto chiamata proprio così, e poi per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Collegamento con Gian Domenico Curi dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per un'iniziativa, una rassegna, se non sbaglio, di 3 giorni per ricordare il golpe in Cile del 1973, visto che siamo a qualche giorno di distanza da quella triste lì ricorrenza. È giusto, Gian Domenico? Sono 40 anni, ahimè. Sì, sì, sì. 40 anni, sì, che insomma abbiamo pensato che meritava ricordarlo, insomma. Ci sembra una data talmente forte, insomma, anche nel nostro paese, credo un po' a tutti i livelli, insomma, ha segnato una ferita, una frattura, una batosta vera e propria, possiamo dire. Tra l'altro un altro 11 settembre. Tra l'altro un altro precedente. 11 settembre, certo. E, in Italia poi fu particolarmente sentito perché suscitò una paura diffusa dal movimento studentesco operaio fino ad arrivare al Partito Comunista, e ci si attrezzava al peggio, perché tra l'altro era cominciata da poco la stagione delle stragi di Stato e dei tentativi di colpo di Stato. E certo, e poi c'era, insomma, per certi versi quello che succedeva in Cile, insomma, quest'unione delle sinistre, questo tentativo di compromesso storico, cioè per molti versi ci riguardava, cioè era una strada che in qualche modo anche la sinistra italiana cominciava a percorrere, per cui insomma c'erano tutta una serie di allarmi, di riflessi. Ma è interessante questo discorso dell'11 settembre, anche tra l'altro, come sai, Callocci ci ha fatto sopra un piccolo cortometraggio, no? Sì, di sì, sì. Un altro 11 settembre, in cui lui dice giustamente, anche quello americano è importante, ma io mi ricordo un altro 11 settembre che è della storia di un cileno che vive a Londra. E un'altra cosa curiosa, che invece l'11 settembre del 2001 il figlio del generale Schneider, che era stato il primo ad essere fatto fuori dalla CIA, perché era uno dei pochi che voleva essere fedele ad Allende, e dopo tantissimo tempo il figlio finalmente si decise a denunciare Kissinger, la CIA e il governo americano per la morte del padre, ed era esattamente l'11 settembre del 2001, e la notizia uscì, era una cosa che leggevo in questi giorni, uscì sul Washington Post, ma fu totalmente evidentemente coperta, sì. Offuscata appunto dalle Torri Gemelle. Quindi c'è questa storia di queste concordanze, di queste strane ritorni su questa data continua. Allora, raccontaci di questa iniziativa, come è strutturata? Dunque, sono 3 giorni, cominciamo dal 9, dove presentiamo un po', facciamo una conferenza stampa alle 11, sempre lì nella sede dell'Amond in via Ostiense, e già invece nel pomeriggio il primo appuntamento importante, perché presentiamo per la prima volta, credo, in Italia, se non altro nella sua forma in qualche modo definitiva, perché è un film lunghissimo, un documentario di 4 ore che si chiama Acta General de Chile, cioè Atti Generali del Cile, che è un film straordinario che Miguel Littin ha girato negli anni tra gli anni 70 e 80, diciamo così, nel clandestinamente nel Cile, ancora sotto la dittatura di Pinochet. Quindi è una specie di percorso che Littin fa, questo regista che, insomma, che aveva seguito un po' tutto il movimento di Allende. Lui ritorna in Cile per capire cosa è restato di quell'esperienza. Sì. E quindi Littin, tra l'altro, non può essere presente perché chiaramente l'11 c'è una richiesta di queste presenze un po' dappertutto, però avremo una sua presentazione in video in qualche modo, per cui che preparerà la visione di questo documentario, che è sempre all'Amond, però alle 18 del pomeriggio, e questo è il primo giorno. Sì. Invece la infornata di film ce l'abbiamo soprattutto il secondo giorno al Nuovo Cinema Aquila, dove c'è proprio una rassegna di come il documentario ha raccontato il Cile di Allende, e non per nulla abbiamo chiamato a presentare questa rassegna, almeno nella sua complessività, Rodrigo Diaz, che è un cileno, uno dei cileni, tra l'altro, arrivati in Italia subito dopo il golpe, che ha vissuto praticamente sempre da noi e che oggi è il direttore del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste. Quindi è uno che conosce molto bene soprattutto quello che è successo in Cile, anche perché appunto lui dirige questo festival e di queste cose si occupa continuamente, e credo è quello che ha la più grande quantità di materiale sul Cile, e in particolare su Allende. Quindi presentiamo quattro film. Il Golpe d'Estado, che è un film di Patricio Guzman, che è un altro regista importante che era all'interno, insomma, dell'esperienza di Unità Popolare, e questa è la seconda parte, è una trilogia in tre parti di un'ora e mezza ciascuna. Questa è la seconda parte dedicata proprio al golpe, quindi come arrivò, come fu preparato e quali furono in qualche modo le conseguenze. Un film tra l'altro premiatissimo, tutto l'intero corpo, che è di 3 ore e mezza, che si chiama La Battaglia di Cile. Questo noi presentiamo solo la seconda parte, che è quella specificamente riferita al golpe. Sì. Poi abbiamo la famosa intervista di Rossellini a Salvador Allende, realizzata nel 1972, insomma, che è diventata un po' un piccolo classico. E invece il terzo film è un film abbastanza curioso, perché è un documentario tedesco poco conosciuto, che si chiama La guerra delle mummie, e è di due registi che sono Aynofsky e Scheumann. La guerra delle mummie perché le mummie, come le chiamano loro, sono in Cile, sono i ricchi, sono i padroni, sono quelli della destra, quindi in qualche modo il titolo sembra strano, ma in realtà è un film fatto molto bene, molto duro, molto un bianco e nero, molto, molto deciso, e sicuramente è una pochissimo conosciuto, e quindi va visto. Terzo giorno, cioè l'11 vero e proprio, insomma il giorno appunto fatidico, è dedicato tutto il giorno a un convegno che si chiama La memoria ostinata tra Cile e Italia 40 anni dopo. La memoria ostinata riprende un altro film importantissimo di Guzman, che ha girato non molti anni fa, da dove lui è proprio tornato in Cile per capire cos'era rimasto di quell'esperienza, per capire soprattutto nella nuova generazione cosa era rimasto, cioè, i ragazzi di oggi cosa ricordano e cosa hanno vissuto. Un film tra l'altro anche questo straordinario, e comincia proprio con una mano che scrosta un muro dove c'è una vecchia scritta di Unità Popolare, per vedere sotto cosa è rimasto, cosa è successo, come se si scavasse negli anni per capire, ecco, la memoria ostinata nel non dimenticare, nel non mettere da parte questa esperienza straordinaria di Unità Popolare, perché è l'unica, tra l'altro, che ha tentato una via rivoluzionaria attraverso la democrazia, e forse questa era un po' la sua contraddizione, ma insomma in tutta l'America Latina è l'unico esempio che possiamo mettere nella storia. Quindi è un convegno organizzato su due parti, una la mattina e una il pomeriggio. Ci saranno altre proiezioni, tra cui appunto proprio il film che dicevamo di Ken Loach, e un altro che Quando despierta il pueblo, che invece è un film realizzato da un collettivo, dal cosiddetto collettivo di Unità Popolare, quindi è un film in qualche modo dal basso, e racconta tutti i tentativi che il popolo cercava di darsi, che la gente cercava di darsi per auto-organizzarsi, quindi l'occupazione delle terre, le fabbriche che diventano gestite direttamente. Quindi è un film molto, molto curioso, molto interessante, molto, secondo me, da da vedere. Il convegno è coordinato da Carlo Casulla, che è un professore di storia all'Università Roma 3 e che è sempre il nostro collaboratore all'Amond, e poi con tutta una serie di altri, non solo esperti, ma soprattutto di testimonianze, quindi di cileni, Patrizia Maiorga, abbiamo lo stesso Raul Morales, che è un regista, anche lui cileno. Abbiamo Leonor Nascimento, che parla degli esodi in Italia, insomma una serie di testimonianze importanti, e per ultimo chiude Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, con un titolo che mi sembra importante: non olvidare, non dimenticare, la memoria e la ricerca della giustizia a 40 anni dal colpo di Stato in Cile, cioè capire poi se questo colpo di spugna, insomma, che i militari hanno cercato di dare alla fine del periodo nero, cosa ha lasciato veramente ancora, che ferite, cose da sanare ancora ci sono. Purtroppo dovevamo chiudere la tre giorni con un concerto, con un concertone su questo tema, ma non abbiamo trovato i mezzi, diciamo, per mettere in piedi. È un peccato, perché cercando e analizzando un po' tra i gruppi, diciamo così, più impegnati, più interessati a questo tipo di discorso, cioè, c'erano un sacco di cose sul Cile, su Allende, c'erano delle chicche veramente straordinarie, che spero un giorno di riprendere questo discorso. Forse, siccome riprendiamo poi con l'università, perché adesso l'università è chiusa, nei primi di novembre faremo una cosa con le tre università riunite, Terza, Sapienza e Tor Vergata, forse lì in quell'occasione forse riusciamo a dare anche spazio alla musica legato a degli Allende. Gian Domenico, allora ricordiamo il luogo, i giorni e anche i riferimenti internet per il programma. Allora, assolutamente sì. Allora, i giorni abbiamo detto 9, 10 e 11. Il 9 è nella sede dell'Amond, che è poi la sede dove c'è la centrale di Montemartini. Sì. Quindi di fronte all'università di Via Ostiense. Il secondo giorno è il nuovo Cinema Aquila, che è in Via L'Aquila, al Pigneto. Sì. Credo che molti lo conoscono, e il numero è Via del Pigneto 68, per chi fosse interessato. Invece il convegno è alla sede della Casa della Memoria, in Via San Francesco di Sales numero 5, in Trastevere. Un'altra cosa da dire è che il convegno l'abbiamo fatto in collaborazione con l'IRCIFAR, che è l'Istituto Romano di Storia della Resistenza, quindi è in qualche modo, quindi rientra anche questa dimensione, appunto, che volevamo sottolineare, perché poi dentro l'esperienza di Unità Popolare c'è anche questo aspetto, di tentativo di resistenza. Voi sapete, insomma, tutta l'ala del MIR, che era tutta l'ala rivoluzionaria, che in qualche modo ha cercato di tenere, per almeno per qualche mese, di tenere testa, appunto, ai fascisti di Pinochet. E in anticipazione a questa tre giorni, visto che hai parlato di Ken Loach, ti comunico, non so se probabilmente ti è arrivata anche l'email che ho inviato stamattina, al Teatro Valle Occupato sabato 7, ne parleranno poi loro dopo la trasmissione Visionari, nella trasmissione del Valle tra le 3 e le 4, ci sarà l'anteprima nazionale del nuovo film di Ken Loach, The Spirit of 45, che è un documentario sul welfare inglese dal dopoguerra fino agli anni 80 e 90. E ci saranno a presentare la serata Elio Germano, Giovanni Spagnoletti e Vilma Labbate. Insomma, è un bel appuntamento. Beh, mi sembra molto molto ricco, molto interessante. Sì. Tra l'altro non avevamo tentato di coinvolgere anche Loach, ma insomma fa sempre più fatica a muoversi lui, credo che abbia qualche problema agli occhi, di vista, non ho capito bene, e insomma non siamo riusciti a portarlo. Però insomma possiamo, ecco, vedere sia questo lavoro sul Cile che sul welfare inglese sabato 7 ma credo che anche perché non c'è nessuno come lui per raccontare queste cose, insomma, quindi certo. È un appuntamento da non perdere assolutamente. Gian Domenico, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Ciao. Ecco noi Carlo Crestodina di Tempesta Film per parlarci del progetto Melt e Plot presentato a Venezia alla Mostra Internazionale del Cinema. Carlo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuti a voi, grazie mille, salute a tutti, a voi e ai vostri ascoltatori. Cos'è questo progetto? Meltaplot è un gioco. È un gioco per creare una comunità che fa un film, che lo scrive e poi lo determina. È un gioco divertentissimo. Quando noi abbiamo avuto la prima versione, la cosiddetta versione alfa, è un gioco online, è un web game chiaramente, sì. Abbiamo avuto la prima versione, ci siamo messi a giocare noi 7-8 che l'avevamo pensato e non la smettevamo più. Sì. Come funziona? Ci si iscrive, il sito è www.meltaplot.rai.it e ogni iscritto riceve 5 brick, che vogliono dire 5 possibilità di scrivere un breve testo di 140 caratteri. Si trova davanti 3 inizi di storie, sì. Molto semplici. Posso dire, stava passando l'aspirapolvere quando suonò il telefono. Con i suoi brick, cioè con le parole che ha a disposizione, può scegliere o di continuare queste storie oppure di andare a leggere cosa hanno scritto gli altri giocatori e continuare le loro storie. Continuare oppure anche deviare, cioè io leggo una storia che gli altri gli hanno scritto fino a un certo punto, poi vedo che, non so, Maria di Forlimpopoli ha fatto morire il gatto, io dico ma a me non piace che muoia il gatto, mi attacco al brick precedente e cambio la versione. Mm-hmm. È un gioco. Come si vince in questo gioco? Qui secondo me c'è veramente un po' il cuore di Meltaplot, nel senso che non ci sono giurie, non ci sono esperti. È molto semplice. Quando i giocatori che fanno parte della comunità assieme a me continuano quello che io ho scritto, io ricevo punti e ricevo nuovi brick, cioè nuove possibilità di scrivere. In questo modo la comunità si regola da sola. Soltanto se io faccio qualcosa di utile alla storia, qualcosa che tutti i Meltaplotter insieme a me amano e ritengono utile, io vado avanti. Sì. Questo in sintesi. Poi il gioco continua di qua. Pronto? Sì. Continua di qua e poi? E poi continua, perché alla fine, ogni periodicamente, prendendo questi punti, ci sono dei vincitori. Sì. I 10 migliori, cioè che hanno preso più punti nei prossimi mesi, si sfideranno in una specie di finale in cui a colpi di creazione partecipata, di buone idee, uscirà un vincitore. Questo vincitore vincerà un contratto per scrivere la sceneggiatura di un film che sarà prodotto da Tempesta e da Rai Cinema. Ma il gioco non finisce qui, perché poi tutta la comunità sarà chiamata a partecipare, ossia chi volete come protagonista, ma soprattutto abbiamo 3 ruoli per non attori, mandateci la vostra clip della scena 22, le musiche, scriveteci delle musiche, le location, dove pensate che dobbiamo girarlo, i costumi e così via. Quindi alla fine è un film collettivo fatto da tutti noi. Sì. Senti, quindi quando è partito, insomma, quando partirà, visto che lo avete presentato a Venezia, dici un po'. È partito venerdì, sta andando molto bene, abbiamo già migliaia di iscritti, è semplicissimo iscriversi, è www.meltaplot.rai.it oppure scrivete Meltaplot su Google e così via, e andrà avanti. Immaginiamo la fase cosiddetta preliminare almeno per 6 mesi e contiamo che nel 2014 scriveremo e realizzeremo il film. Ma ripeto, quello che veramente riteniamo, quello che interessa a noi, è proprio quest'idea di una scrittura comune, comunitaria, in cui non ci sono autorità, c'è soltanto un organismo che funziona e si autoregola. E in questi primi sei mesi ci si può iscrivere in qualunque momento? In qualunque momento, certo, anche perché ogni periodicamente, immaginiamo ogni 3 settimane, ci sono degli nuovi inizi di storie da cui ci si può ripartire. Si può arrivare l'ultimo giorno e vincere, questo è sicuro, sicurissimo. Benissimo, allora i riferimenti internet ce li hai dati, immagino che poi sul sito si possa vedere anche lo stato dei lavori e a che punto si è arrivati con le storie. Sì, certo, non solo, ma sul sito vedrete ci sono stati 20 attori italiani che ci hanno fatto, ma forse anche di più, 25 se non sbaglio, che ci hanno fatto un regalo, ognuno di loro si è inventato e recitato un incipit, e ci sono i migliori attori italiani che hanno fatto questo regalo a Meltaplot. E guardate, un'avventura, Rai Cinema ci ha creduto molto, la Cineteca di Bologna ci ha aiutati all'inizio e a partire con la startup, e per noi che produciamo cinema d'autore è come dire, qualcuno ci ha chiesto: ma perché fate questa ragazzata? Ma perché quello che caratterizza i film che ha fatto Tempesta, Corpo Celeste di Elisa Rohrwacher, L'Intervallo di Leonardo Di Costanzo, la loro novità stava nel modo come questi film sono fatti. E Meltaplot è un altro innovativo, strano, eretico modo di fare un film. E allora noi vi seguiremo strada facendo. Carlo, un abbraccio e risentirci alla prossima a questo punto. A voi tutti, e vi teniamo informati su come va Meltaplot. Bene, ciao. Grazie, ciao. Carlo Crestodina di Tempesta Film per il progetto Meltaplot presentato a Venezia. Visionari su Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ben ritrovato Stefano Mencherini. Ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Oh, per parlare con te di due idee, o anzi una già realizzata e un'altra che sta per prendere il via. Stiamo parlando prima del documentario Servi che hai presentato a Venezia ed uscirà a metà mese, e adesso ci racconterai come. Sì, intanto sì. Parliamo un po' di questo Servi, come è nato, come si è sviluppato. Schiavi. Schiavi è nato quasi come conseguenza naturale di Mare Nostrum, che era del 2003, quindi oltre 10 anni fa, e denunciava per la prima volta in questo paese le nostre Guantanamo, i nostri nuovi campi di concentramento, che ai tempi si chiamavano centri di permanenza temporanea. Ne prendeva uno ad esempio, il Regina Pacis di Lecce, il più grande, il più vecchio di tutti, il primo, quello che per la Bossi-Fini è stato il modello dei centri di permanenza temporanea in Italia, dove si torturavano e seviziavano i migranti internati. Questo ed altro nel racconto denuncia di Schiavi, di Mare Nostrum, appunto una decina di anni fa, che ovviamente ne ha fatto uno tra i lavori più censurati degli ultimi 20 anni nel nostro paese, non lo so, non vorrei dire inesattezze. Di fatto Mare Nostrum non è mai stato veicolato su nessuna televisione, tantomeno sulla Rai, che è l'azienda per cui faccio il regista da 23 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E Schiavi è nato proprio come conseguenza naturale per fare una quadratura del cerchio di oltre 10 anni di nefaste politiche dell'immigrazione nel nostro paese, di tutti, e ripeto e sottolineo tutti, i governi che si sono alternati almeno da 15 anni a questa parte. Fino ad arrivare ai CIE, ai famigerati CIE. Certo, questo per i CIE, sì, però io in Schiavi non parlo più di CIE, perché lo avevo già fatto appunto con Mare Nostrum, e quello rimane un documento che tra l'altro io ho liberato su internet quando ho visto che le censure erano così pesanti e così pressanti, l'ho liberato su internet, e quindi chi vuole può andare su arcoiris.tv o in tanti altri siti dove se lo può anche scaricare. Io oggi parlo delle nuove forme di schiavismo nei confronti dei nostri fratelli stranieri, e prendo ad esempio una delle ennesime emergenze immigrazione che sono state inventate nel nostro paese. Inciso, la logica dell'emergenza viene molto utile a chi sull'emergenza vuole speculare, che sia un governo politicamente, che sia qualche altra organizzazione economicamente, perché sapete, l'emergenza richiede dei degli interventi rapidi, degli interventi, come dire, che hanno pochissimi controlli, se non nessuno, e quindi è facilissimo poi fare i propri interessi, sì, a forza di emergenze. Sì. E io documento in Schiavi, che ho girato in 3 anni e che era un work in progress, che è diventato un lavoro di oltre 65 minuti, documento l'ENA. Vi ricordate che cos'è l'ENA? L'emergenza Nord Africa, quando cominciavano ad arrivare sulle nostre coste i primi migranti che scappavano dalle primavere, cioè che il flusso dalle primavere arabe, e poi soprattutto dai bombardamenti della NATO in Libia, sì, quando Gheddafi, dopo che era stato corteggiato per anni da Berlusconi, dallo stesso Berlusconi fu, come dire, condannato a morte. E allora lui decise bene, non avendo armi, e questo lo raccontano i migranti nel mio nuovo film Inchiesta, di usare loro stessi come armi e mandarceli tutti da noi. Questa emergenza a Nord Africa è durata oltre 2 anni, è stata finanziata con oltre 1.300.000.000 di euro, che sono stati prelevati, ancora oggi forse vengono prelevati con accise sui carburanti, quindi le abbiamo pagate, le paghiamo tutti noi, ed è stato delegato tutto dall'ultimo governo Berlusconi alla protezione civile, guarda un po', che ha fatto, cioè che ha gettato questi soldi alle ortiche. Io documento come e denuncio come. Poi la quadratura del cerchio: questi ed altri migranti regolari, irregolari, richiedenti asilo o rifugiati, che hanno già avuto lo status di riconoscimento del loro appunto stato, che cosa fanno in un paese che non ha nulla per loro, se non appunto i rigurgiti razzisti, le politiche meramente repressive e tutto quello che conosciamo da almeno 15 anni a questa parte? Vanno a lavorare per cercare di mangiare un pezzo di pane. E dove vanno a lavorare? Vanno nelle braccia e nelle reti dei nuovi schiavisti, che sono i nostri prenditori nelle nostre campagne del sud come del nord, che li schiavizzano come erano schiavizzati in Libia o come erano schiavizzati nei loro paesi per 20-25 euro al giorno. E anche qui documento attraverso per esempio la raccolta delle angurie di Nardò, dove 2 anni fa c'è stato il primo sciopero dei migranti in Italia, nella storia d'Italia, rispetto che si sono opposti allo sfruttamento e alle angherie di prenditori agricoli e di caporali. Fino ad oggi, 2 anni fa, e 2 anni non è cambiato nulla. Oggi la situazione è ancora peggiore, nonostante a Lecce sia aperto e sia tuttora in corso l'unico processo in Europa per riduzione in schiavitù, che contesta questo reato gravissimo a questi imprenditori agricoli e ai loro caporali. Oh Stefano, Schiavi uscirà a metà del mese, ecco, che modalità sì, ci sarà? Penso intorno a metà mese, insomma adesso giorno più giorno sì, meno. Perché? Perché Schiavi, a differenza di Mare Nostrum, che è rimasto solo, senza una produzione fino alla fine, senza una distribuzione fino alla fine, ho dovuto fare appunto, inventarmi tutto da solo grazie all'aiuto di internet e dei compagni che lo veicolavano, che duplicavano le cassettine, ai tempi c'erano i VHS, poi i DVD eccetera. Schiavi sta partendo con un piede un pochino più fortunato, ha avuto una coproduzione dalla Fly CGL nazionale e da una piccola ONG, Les Onlus di Napoli, che si occupa di richiedenti asilo e rifugiati, e quindi avrà una, cioè la sua uscita avrà una programmazione. Stiamo proprio decidendo questo. Io credo che farò a breve una, mi auguro, importante conferenza stampa alla sala stampa estera, perché i giornalisti italiani, insomma, io ho stima di tanti colleghi, ma ho disistima della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani, perché li conosco troppo bene. E quindi partiamo ancora come Mare Nostrum dalla sala stampa estera, se ce la, come dire, se ce la concedono, e da lì poi in giro per l'Italia vedremo, vi saprò dire. Seguite anche il mio sito, che è www.stefanomencherini. cgni.org, i siti della Fly CGL, e da lì sicuramente imparerete bene. Tutto. Stefano, allora dacci anche una prima indicazione, poi magari ci torneremo sopra prossimamente in maniera più approfondita, sul progetto invece di laboratorio. Il laboratorio è un'idea che insieme ad alcuni colleghi Rai io mi sono inventato nel 2007. Allora era direttore generale un signore che si chiamava Cappon. Si sono alternati tanti signori alle direzioni generali e alla presidenza della Rai, anche nel consiglio di amministrazione, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono l'azienda ha 200 e passa milioni di rosso di debito destinato ad aumentare, i contenuti che veicola raramente sono da reale servizio pubblico, la sua mission ormai è persa in mille rivoli, ci sono, come dire, l'azienda rischia di diventare un crogiolo di piccoli feudi che ogni piccolo capo gestisce a suo uso e piacimento, e viva il conflitto di interessi, insomma, in questi anni. E quindi noi ci siamo inventati un'idea, che è cercare di premere il più possibile, aiutateci anche voi, per far istituire, far nascere dentro la RAI un laboratorio permanente, una struttura fissa che nessun giro di valzer della politica può modificare, di produzione e scuola, cioè formazione di cinema documentario, perché siamo convinti che il nostro paese, come le zone calde oltre confine, oltre oceano, non siano più raccontate se non dalle veline dei telegiornali o da qualche bravo inviato che però insomma fa il lavoro che può con un minuto e mezzo, due minuti di servizio. Sì. Sicuramente non sono raccontati il nostro paese e appunto le situazioni più o meno critiche negli altri paesi dai programmi di rete, insomma, no? dai vari talk show. Ecco, dove si vedono i soliti ballatoi a cui ormai francamente non si riesce più a assistere. Mm-hmm. Quindi cerchiamo di proporre una proposta vera di servizio pubblico. Bene. E siccome la RAI fra i suoi 11.000 passa dipendenti ha tanti professionisti che oggi tiene nel congelatore, ne cito uno a caso, Filippo Vendemmiati, che ha vinto il David di Donatello con È stato morto un ragazzo sulla storia di Aldrovandi e ha fatto delle cose bellissime, un altro posso essere io molto umilmente, ma vi assicuro che ce n'è un sacco. Allora chiediamo che questi professionisti siano messi a gestire e a lavorare in questo laboratorio per appunto valorizzare anche le risorse interne che la RAI ha, tra l'altro risparmiando un sacco di soldi. Primo, perché quando la RAI compra un documentario all'esterno lo paga 5, 6, 4, 3 volte di più di quello che costa produrlo internamente. E due, perché insomma se il servizio pubblico è, il servizio pubblico certo deve essere. E le indicazioni in questo senso si possono trovare già sul tuo sito internet, immagino. Qualcosa sì, qualcosa sì. Poi io credo che articolo21.info stia rilanciando la sottoscrizione, la raccolta di firme. Bene. Perché? Perché questa è una proposta che è nata così, con una raccolta di firme su articolo 21 nel 2007. Poi arriviamo alla sala stampa del Senato, dove facciamo una conferenza stampa, c'era Sergio Zavoli che si disse generosamente disponibile a fare il garante di fronte a RAI di questo laboratorio che noi chiedevamo che nascesse. Oggi Sergio Zavoli è sempre accanto a noi e ce ne sono tanti altri, dei grandi autori. Ieri a Venezia, a parlare di questo, c'erano Giuliano Montaldo, Stefano Rulli, oltre vabbè alle figure istituzionali, al direttore della Mostra del Cinema di Venezia e tanti altri, insomma. Bene. Perché? Perché si sente questo bisogno, questa urgenza, questa necessità. E allora Stefano, ci terrai informati in questo senso. Io ti abbraccio e a risentirci presto. Abbraccio io voi, grazie per quello che fate, continuate così. A ciao presto. Stefano, ciao. Stefano Mencherini, regista del documentario Schiavi, presentato a Venezia in uscita a metà settembre. Emiliano Monreale, conservatore della Cineteca Nazionale, per parlarci della presentazione a Venezia di alcuni film restaurati. Emiliano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti, buongiorno. Allora, alcuni titoli importanti presentati in forma restaurata, e come sta andando lì a Venezia? Ma molto bene, devo dire che fin dall'inizio noi abbiamo, diciamo, preinaugurato, questo strano termine, la mostra del cinema con Le mani sulla città, che è andato molto bene in termini di riscontro, di critica, di stampa, eccetera, e anche di pubblico, nonostante poi la pioggia del Campo San Polo al momento della proiezione, poi ho avuto altre proiezioni successive tutte esaurite, eccetera, ma soprattutto ho avuto un grande riscontro che è continuato nei giorni, per esempio fino a ieri l'International Herald Tribune ha pubblicato un articolo sulla mostra di Venezia, di cui più di metà dell'articolo era dedicato appunto al nostro restauro delle mani sulla città. Poi ieri sera è passato un altro film molto importante, di cui il restauro però era piuttosto stato più elaborato, cioè Quien Sabe, un western politico di Damiano Damiani, il prototipo dei western rivoluzionari, un film del 66, un omaggio a Damiani che è scomparso quest'anno, e insomma un lavoro complicato, perché si è trattato di un film che probabilmente anche a causa dei suoi contenuti politicamente scomodi, diciamo, era stato sottoposto a varie forme di censura, dal divieto ai minori di 18 anni a una serie di tagli che noi per la prima volta abbiamo reintegrato nel film, che quindi si può vedere in una versione lunga, integrale, corrispondente alla volontà dell'autore, e addirittura in alcuni casi, per esempio, lunga fino a un quarto d'ora più delle versioni circolanti ad esempio in DVD. Emiliano, dopo questa presentazione veneziana, quale sarà la politica rispetto alle sale? Le sale, in questi film, diciamo, la distribuzione in sala dipende, diciamo, non si è mai fatta dei tavoli. Adesso si è tentato, sta tentando la Cineteca di Bologna di mandare alcuni giorni a settimana alcuni restauri mirati, per cominciare a fare una cosa che in realtà negli altri paesi è normalissima, insomma, in Francia, a New York, escono a Parigi, a New York, escono tutte le settimane dei film restaurati in sala. La cosa che abbiamo fatto riguardo alle mani sulla città però è stato di farlo passare subito in televisione, il restauro, sì, visto che il restauro del film, che è stato trasmesso da Rai Movie alle 23:30, due giorni dopo il restauro, cioè due giorni dopo la proiezione veneziana del restauro, e vorremmo cercare di dare una nuova vita a questi film, al di là delle proiezioni, che comunque per quanto riguarda Le mani sulla città saranno tantissime, cioè sarà proiettato, ma non come forma di uscita regolare nelle sale, sarà proiettato sicuramente a Napoli, a Firenze, a Torino, forse a Bruxelles, sicuramente al MoMA di New York. Queste sono alcune delle tappe del film, quindi non una distribuzione vera e propria in sala, ma una serie di proiezioni pubbliche, di eventi, sì, che sono la cosa che noi possiamo fare in realtà, perché essendo una fondazione non a scopo di lucro, noi non possiamo distribuire il film nelle sale. Senti, invece, ecco, proprio rispetto alla Cineteca Nazionale, cosa ci dici anche per i più giovani che non conoscono questa realtà? Allora, la Cineteca Nazionale è innanzitutto il luogo in cui sono depositati i film del cinema italiano, per legge, una copia, sempre da lui dagli anni 60, e poi che possiede o comunque ha in deposito la gran parte del cinema italiano anche precedente, sono circa 80.000 film, è tutto lì, le copie, a volte anche negativi, altre volte negativi, si trovano da altre parti, presso gli aventi diritto, sono i proprietari, perché la Cineteca non è proprietaria di questi film, ma è il custode delle copie. L'attività che fa però è molto varia, cioè va dal restauro, come in questi casi, alla pubblicazione di volumi, o per esempio noi abbiamo presentato a Venezia un libro con DVD su un una cosa molto interessante, che sono dei film di propaganda politica di Edoardo De Filippo. Cioè, a un certo punto Edoardo De Filippo si mette a fare per il 48 e 50 dei film di in qualche modo di un invito al voto, della propaganda per il piano Marshall. Noi abbiamo ritrovato e abbiamo pubblicato il libro con questi DVD, con il DVD contenente questi filmati, ma anche altri libri arriveranno, rassegne, retrospettive. A Roma c'è un cinema che è tutto programmato dalla Cineteca Nazionale, che è il cinema Trevi, dalle spalle della fontana di Trevi. Collaboreremo con il Festival di Roma con una serie di retrospettive. Sono queste alcune delle cose fondamentali che fa la Cineteca Nazionale. La mia idea è, da quando sono stato nominato conservatore, si dice, questo è il termine esatto di chi si occupa appunto dei film, è stato di rilanciare anche l'elemento della comunicazione e della progettazione culturale, cioè che non sia soltanto un deposito di film, certo, per quanto questo sia fondamentale, ma anche un luogo di promozione della cultura. Credo che questo stiamo riuscendo a farlo, anche perché c'è una rete, tra l'altro, anche collaborando in maniera molto proficua con altre istituzioni, come per esempio il Museo Nazionale del Cinema di Torino o la Cineteca del Comune di Bologna, che sono altre istituzioni del nostro paese che si occupano di queste cose. Bene, a questo punto potete anche far riferimento a questa trasmissione per quanto riguarda le iniziative culturali che metterete in piedi. A proposito delle vostre attività, credo faccia fede il sito internet della Cineteca Nazionale. Sì, il sito della Cineteca Nazionale, che può essere andato sia appunto come cinetecanazionale.it, sia digitando all'interno di Fondazione CSC, sarebbe Centro Sperimentale di Cinematografia, perché la Cineteca Nazionale si trova fisicamente, fa parte anche, come dire, con struttura del Centro Sperimentale di Cinematografia in via Tuscolana. Da settembre riapre il Cinema Trevi con una programmazione abbastanza fitta di cose interessanti. Faremo tutto Fellini, faremo un omaggio alla Magnani, faremo una serie di incontri con direttori della fotografia, registi, sceneggiatori, eccetera, una personale di Francesco Rosi, ancora una volta con la copia della storia delle mani sulla città, eccetera, eccetera. Beh, del resto con la Sala Trevi spesso siamo in collegamento proprio per parlare delle iniziative che mette in piedi. Emiliano, io ti ringrazio, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Emiliano Morreale, conservatore della Cineteca Nazionale, per parlarci della presentazione a Venezia di alcuni film restaurati. Abbiamo in linea Romano Fattorossi, direttore di InVideo, per parlarci del Milano Film Network, che è stato anche questo presentato a Venezia. Romano, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, ciao, eccomi qua. Eccoti qua. Allora, mi sembra un'iniziativa interessante, notevole, che riunisce diverse esperienze milanesi in questo senso. Ma in realtà riunisce tutte e sette le realtà di festival che ci sono a Milano, no? Sì. Che sono, cioè, a Milano ci sono sette festival, tutti, diciamo, delle piccole eccellenze, ma nessuno gigantesco, nessuna festival di Roma, nessuna festival di Torino, nessuna Biennale di Venezia, però nel loro ambito sono tutti piuttosto quotati. Te li enuncio: sono il Festival Cinema Africano, il Festival Mix, Filmmaker, InVideo, Milano Film Festival e Sguardi Altrove Film Festival e poi Sport Movie and TV Festival. Nel corso del tempo più o meno di tutti ci siamo occupati parlando. Immagino, forse meno di quello di Spot, perché è molto settoriale. Detto, però, anche lui nel suo ambito è decisamente importante. Allora, la cosa è interessante, cioè il ragionamento che noi abbiamo fatto. Ti faccio una piccola premessa sulla ratio di questo ragionamento, no? In questo periodo in cui i soldi sono sempre di meno, e in cui è necessario razionalizzare tutta una serie di spese, viene naturale dire: beh, cerchiamo di fare alcune cose in comune, no? Cerchiamo di ridurre i costi mettendoci insieme. E questi tentativi di razionalizzazione sono stati fatti in diverse regioni, diciamo, italiane, e secondo degli schemi diversi. Il Friuli Venezia Giulia si è inventato una legge regionale in cui inserisce tutti i festival che sono in qualche modo coordinati fra di loro, e questo l'ha fatto la regione. In Toscana la videoteca si è inventato un meccanismo in base al quale che più che altro promozionale, che si chiama 50 giorni di cinema internazionale a Firenze, non so se l'hai in mente. Hanno messo in fila tutti i festival, sì, che ci sono in città al Cinema Alfieri, quindi per 50 giorni loro fanno una specie di opuscolo promozionale, che tra l'altro distribuivano a Venezia, quindi hanno puntato molto sulla promozione congiunta di tutti gli eventi. In Piemonte hanno usato un sistema più sabaudo, hanno messo tutti i festival sotto la cupola del Museo del Cinema, che coordina tutti i vari, sì, festival cinematografici. Da noi invece in Lombardia la cosa ha una particolarità che lo rende abbastanza unico, cioè questa iniziativa non è stata imposta, portata dall'alto da una regione, da un assessore, non c'è nessun assessore, non c'è nessun politico dietro questa cosa. Ci siamo noi che ci siamo messi insieme, abbiamo elaborato un progetto, l'abbiamo fatto vedere alla Cariplo, e la Cariplo ha detto che bello, facciamolo, ci sembra un'ottima iniziativa. Quindi è un'iniziativa che è nata dal basso, questo ci sembra un elemento di grande novità e di grande forza, ed è stato questo elemento in particolare è stato molto apprezzato a Venezia quando ne abbiamo parlato. Diciamo che siamo dei pionieri di questa scelta, siamo i primi che spontaneamente si sono accordati, e grazie a questa cosa hanno ottenuto pure un finanziamento dalla Cariplo, che lo vede come un rafforzamento dell'offerta cinematografica sul territorio. Questa mi pare una premessa importante. Sì, sì, sì, sì. Immagino che per quanto riguarda tutti i festival ci sia una non sovrapposizione e poi un aiuto reciproco. Allora, c'è un aiuto reciproco, nel senso che ciascuno di noi annuncia quello che fanno gli altri attraverso la sua mailing list e queste cose qui, ma anche per esempio adotta all'interno degli altri festival delle opere che gli sono più vicine. Noi per esempio abbiamo, ti faccio l'esempio del Milano Film Festival che è cominciato adesso, no? Che è stato anche in corso, sì, c'è stata la conferenza stampa l'altro giorno. Loro presentano quest'anno un film di un regista americano che si chiama Jem Cohen, che è un film di fiction. Ora, Jem Cohen l'abbiamo scoperto noi negli anni 90, io personalmente devo dire l'ho provato a Chicago, l'ho conosciuto, l'abbiamo lanciato nel corso degli anni, l'abbiamo sempre presentato, è venuto a Milano. Noi facciamo cinema sperimentale, questo film non è più sperimentale, lui è passato alla fiction e quindi giustamente lo presenta a Milano Film Festival. Però noi siamo ben contenti di poter continuare a sostenere un autore che abbiamo scoperto, che amiamo molto, anche se fa cose ormai diverse. E quindi abbiamo adottato all'interno del Milano Film Festival questo film di Jem Cohen, che promuoviamo attraverso una sua mailing list, segnalandolo a quelli che vengono a vedere i film che i nostri film, diciamo. E questo è il tipo di promozione. Tutti gli altri festival hanno fatto la stessa cosa con altre opere all'interno del mio festival. Prima hanno fatto la stessa cosa con i festival del cinema africano, c'era una sezione sperimentale, noi abbiamo promosso quella, e così via, no? E sì, questo è il tipo di promozione, semplicemente. Ma per dirti, lo stesso dei sottotitoli lo abbiamo centralizzato, abbiamo messo su una struttura che è fatta i sottotitoli per tutti i festival. Ah, bene, bene. Nel corso, e questo ha due vantaggi: uno, che permette di avere un risparmio di costi, perché chiaramente due, ti permette anche di stabilizzare delle persone che lavorano in modo, certo, continuativo, che anche per loro è importante, ovviamente. Questo è lo stesso discorso vale per il movimento copia, per l'ospitalità, sì, per la tecnologia. E ti vorrei aggiungere solo una cosa: non è che abbiamo vinto lotteria noi questi servizi li mettiamo a disposizione di tutte le realtà sul territorio. L'esposizione non vuol dire gratis, ovviamente, sì. Però se qualcuno decide di fare qualcosa a Milano inizialmente, ma vorremmo anche ragionare a livello nazionale, sa che noi siamo qui e può chiederci. Noi siamo ben contenti di trovare delle forme di collaborazione. Per esempio, gli ospiti che vengono a Milano possono sapendolo per tempo, siamo partiti quest'anno e quest'anno non ci riusciremo, ma dall'anno prossimo, essere condivisi con realtà che magari sono operative in Calabria, in Sicilia, in zone in cui un viaggio dall'America diviso due costa meno che un viaggio dall'America diviso, capisci i meccanismi, sì, no? Sì, sì. Oh, Romano, immagino che questo network si sia dotato anche di uno strumento online che certo, certo, sì. Arrivavo a questo. Lo strumento online esiste per tutto, ma in particolare per l'archivio, cioè quello di cui, ecco, l'altra cosa che voglio dire in premessa è che ognuno di noi ha una specializzazione, no? Noi per esempio come Invidio abbiamo sempre lavorato sull'archivio perché abbiamo acquisito le opere durante 20 anni, abbiamo il più importante archivio di video d'arte sperimentale in Italia. Filmmaker, ha sempre fatto gli workshop formativi, si è occupato di produzione, quindi ognuno di noi ha messo a disposizione questa competenza a disposizione degli altri. Noi come archivio, per dire, abbiamo cominciato innanzitutto, sai che le opere non digitali, analogiche ormai si stanno sgretolando, i vecchi DVD, i vecchi, ecco, abbiamo preso tutta questa roba di tutti i sessi e l'abbiamo tutta digitalizzata. Gran lavoro. Dopodiché è un lavorone, infatti è cominciato, sta andando ancora avanti, sono 2 mesi che abbiamo delle persone che ci lavorano, siamo dotati di strutture varie, così via. Questo materiale verrà poi messo online in bassa risoluzione, in formato piccolo e non scaricabile, un po' schifosetto, ma che non possa essere piratato, diciamo, ma che invece possa servire a promuovere gli autori, e questo ovviamente avverrà via internet. Ancora non è operativo, ma lo sarà fra non molto. Questo è un altro tipo di attività che secondo me, alla quale io tengo molto, che è molto importante, cioè questo archivio online. E volevi sapere, sì, che esiste un www.milanofilmnetwork.it. Benissimo, immagino poi che tutte le novità saranno appunto su internet a disposizione. Esatto, e poi in prospettiva adesso stiamo mettendo l'archivio. Bene, però bene. Poi l'obiettivo finale sarà quella, la speranza è quella di finire il festival e il giorno dopo il festival, il mese dopo, cioè meno, diciamo il giorno dopo il festival, quello che è passato al festival sarà visibile online. Bene. Romano, allora noi crediamo... Sì, dici. Di. No, perché io credo che il festival, la funzione fondamentale del festival è quella di far incontrare la gente, fare degli incontri, creare le situazioni, ma poi le cose, se te le vedi anche dopo per i fatti tuoi, va bene lo stesso. Perché sono importanti, che continuano a essere vivibili, ecco. Sì. A questo e punto posso aggiungere un'ultima cosa, sì. Cioè, tra le altre attività abbiamo una di distribuzione, sai che ormai la distribuzione si va sempre più omologando, quindi noi abbiamo deciso di fornire un film a festival ogni anno, onde creare un pacchetto che possa essere circuitato, che possa andare in varie situazioni non commerciali, in situazioni di vario tipo. Ecco, questa è un'altra cosa che vogliamo fare, per esempio, ma ce ne sono tantissime altre, il progetto è molto ampio. Avremo modo sicuramente di riparlarne prossimamente. Io spero di sì. Romano, un abbraccio e risentirci presto. Ciao, arrivederci, grazie. Ciao. Romano Fattorossi, direttore di Invideo sul Milano Film Network, che è stato presentato a Venezia. Piero Cannizzaro, ben ritrovato. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Allora, mi hai comunicato che su Aoneir sono a disposizione alcuni tuoi lavori. Di Aoneir, il progetto, ne avevamo parlato proprio con i creatori un po' di tempo fa, è un modo di distribuzione online dei lavori cinematografici a costi molto ridotti. Quali sono i tuoi lavori, Piero, che sono già a disposizione? Sì, i lavori sono, tra l'altro, di alcuni ne abbiamo parlato anche con te proprio alla radio. Uno è Ossigeno, sì, il documentario, diciamo, quello di un riscatto di una rivincita, come dire, di una persona, di un personaggio che ha avuto una rinascita interiore, e quindi sullo sfondo delle lotte degli anni 70 politiche. Invece poi l'altro è La notte della Taranta e dintorni, che è il documentario che ormai è girato 12 anni fa nel Salento, che è stato il primo documentario sull'ormai famosissima Notte della Taranta, che però allora aveva un altro sapore, infatti è diventato ormai un documentario cult e molti, insomma, ancora 2 mesi fa sono stato a presentarlo a Londra, insomma gira ancora. Insieme a questo viene visto, e questo è molto bello da parte di, diciamo, di On Air, e io ho aderito molto volentieri, cioè con, diciamo, 2 al prezzo di 1, vale a dire scaricando il link di La Notte della Taranta, cioè sia La Notte della Taranta e dintorni che Ritorno a Curumuni, che poi è interessante perché Ritorno a Curumuni è la risposta alla Notte della Taranta e dintorni, cioè La Notte della Taranta parla di musica di contaminazione con i canzonieri Gregarico Salentino, Piccina Zoè e Mascherimeria ed altri, invece Ritorno a Curumuni parla del ritornare alla tradizione con Enza Pagliara, con Luigi Chiriatti, con Maurizio Nocera, tutti i nomi che chi è amante della musica salentina ed etnica conosce. E l'altro documentario invece è Città Slow, il viaggio che ho fatto per l'Italia negli ultimi 3 anni, andando in giro, appunto frequentando queste città che hanno in qualche modo tra le loro prerogative l'attenzione alla bellezza, come bellezza non si intende o al buon vivere, non solo il cibo, ma anche proprio può essere la poesia, la filosofia, esatto, l'arte e la cultura. Ecco, questi 3 sono praticamente 3 link, di cui appunto uno è doppio, quindi sono comunque 3-4 documentari. Ecco. Quindi anche tu hai apprezzato, insomma, questo sistema di On Air, di mettere a disposizione dei lavori online. Sì, beh, io sono non solo apprezzato, intanto è nato in un modo molto piacevole, perché come un autore sognerebbe, cioè io stavo presentando al Palladium, all'interno del festival che c'è stato verso aprile, al Palladium di Roma. E poi dopo si è avvicinato una di queste persone, Alessandro, una persona molto carina e giovane, e che si è avvicinato, dice: mi è piaciuto molto il tuo lavoro, mi piacerebbe parlarti, e mi hanno proposto loro di metterlo bene. E mi sembra tra l'altro un modo che a parte che On Air, come sapete, ha un catalogo molto bello, da Chiarostami a Ben Ferrara, Custurica, Truffaut, insomma i Dardenne, tanti, poi c'è proprio anche una sezione documentari, e insomma per i miei lavori, che sono lavori nel senso nobile e scelto, direi di nicchia, anche se sì, in parte non mi piace questo termine, però insomma sono sicuramente lavori, io mi sono un pochino dedicato al low cost anche in tempi, diciamo, non sospetti, nel senso che adesso siamo un po' costretti al low cost, prima invece mi sembrava un modo per poter andare con una telecamera e girare senza avere troppi condizionamenti, e questa è sempre stata un po' la mia scelta, a discapito magari di un budget più alto, però ho sempre preferito una libertà che mi ha concesso appunto il low budget, sì, adesso. Mi trovo perfettamente in linea con i tempi, vale, certo, dire, con la crisi. Però sono quello che mi piace di questi lavori, che Ritorno a Curumuni c'ha 6-7 anni, La Notte della Taranta e dintorni ne ha 12, Ossigeno no, è dell'anno scorso, è di quest'anno praticamente, sì, è di quest'anno, quindi sono 3 lavori nell'arco del tempo distribuiti, però sono tutti 3 lavori che vengono continuamente richiesti, ripeto, certo. La Notte della Taranta è stato qualche anno fa anche al Festival in Sudafrica, è stato a Londra, a New York, insomma in certi ambiti girano, e credo che una distribuzione di questo tipo dove tu puoi scaricare sia assolutamente in linea con la filosofia, con la mia filosofia, insomma. Sì. Ecco Piero, ci lasci dei riferimenti internet per chiudere? Ma i riferimenti internet credo quelli che di adesso, sai che la dicitura è un po' lunga, io credo che basti andare su OVNAIR, che sarebbe OWNAIR, e cercare Piero Cannizzaro tra i registi e esce tutto. Bene. Se no su Facebook, sulla mia pagina si trova qualcosa, ma forse basta andare su Facebook, anche su OVNAIR, che si trova tutto, è abbastanza bene, facile, insomma, credo, ripeto, OVNAIR, poi i film sono disposti tra registi o titolo, o chi si ricorda Ossigeno, no? Tra Atalante dintorni, ritorno a Corumoni o Città Slo, può cercarlo, oppure cerca il mio nome, Piero Canizzaro, ed è fatta, insomma. Bene. Allora Piero, a risentirci per le prossime novità a questo punto. Senz'altro, grazie molto. Un abbraccio, ciao. Grazie, a presto, ciao. Bene, Piero Cannizzaro sulla distribuzione su On Air di alcuni suoi documentari. Un ultimo collegamento con Gabriella Gallozzi. Intanto ben ritrovata, Gabriella. Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori. Con te ci sentiamo a un anno perfetto di distanza, sempre per parlare del premio Bookchak Azione, in quel delle giornate degli autori in questa edizione 2013, dopo la programmazione lo scorso anno. Allora racconta un po', per chi non conoscesse questo premio, di cosa si tratta, Gabriella. Allora, intanto siamo molto contenti di esserci ancora, ecco, visto i tempi difficili che stiamo attraversando. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo un nuovo partner, Illustre, Sky Arte, che è con noi per rilanciare questo premio che si occupa sostanzialmente di cinema e letteratura, di mettere insieme cinema e letteratura, poiché è una tendenza che oramai vediamo essere diffusissima anche nel cinema italiano. Quindi noi abbiamo invitato dei giovani filmmaker a realizzare dei video che noi chiamiamo Bookchak, ispirati ai libri della piattaforma Bookchak, dove ci sono i romanzi della narrativa italiana più adatti da portare al cinema. Abbiamo selezionato 3 libri e abbiamo invitato gli autori a realizzare questi video, che non sono però i tradizionali book trailer che in modo narrativo raccontano la storia del romanzo, sono piuttosto video arte, direi, per cui non devono raccontare la storia, ma devono raccontare l'emozione visiva che suscita il racconto, il libro, il romanzo, perché la nostra idea è che possano diventare in futuro una sorta di quarta di copertina per gli ebook, per questo in modo da offrire ai giovani autori un luogo di sperimentazione, di contaminazione anche con la rete, scoprire quindi nuovi linguaggi. Il premio, tra l'altro, si avvale di una giuria straordinaria, eccezionale, di cui fanno parte Ettore Scola, Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Gianluca Arcopinto. Stasera appunto Ettore Scola sarà con noi per premiare questi giovani vincitori. Sono 3, a questo punto li annuncio. Sono Ernesto D'Argenio, per Tesson Rose, che è un giovane attore, e Yolanda di Bonaventura per il libro Pelle e Ossa di Paolo Cognetti, che è una piccola storia di anoressia, è una giovanissima ragazza di 20 anni. E poi terzo premiato è sono due, un padre e un figlio, in questo caso Claudio e Giovanni Fioramanti, con Olio, tratto dal romanzo Verrà cantando il sangue di Vittorio Del Tufo, Roggiosi Editore. Questi 3 video che hanno vinto e sono stati selezionati andranno in onda nei prossimi mesi su Sky Arte HD. E quindi, come dire, siamo entusiasti di questi risultati, perché abbiamo visto che appunto stanno partecipando, ci sono arrivati tantissimi video di giovani e giovanissimi, e quindi questo è, cioè, abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché noi volevamo proprio offrire una palestra. Certo. Sperimentazione per i giovani. Bene. E allora è un bilancio assolutamente positivo. A questo punto ricordaci i riferimenti online per chi volesse saperne, allora, di più. Sì, il sito è www.bookchak.it. E poi comunque trovate anche sul sito di Sky, sul sito delle giornate degli autori soprattutto, e per qualunque informazione il riferimento appunto è il sito Bookchak. Prossimi appuntamenti pubblici ce ne sono, Gabriella? Sì, guarda, stiamo pensando di organizzare a Roma una giornata in cui proiettare anche tutti gli altri video che non sono arrivati alla vittoria, perché comunque è arrivato tantissimo materiale interessante, e quindi ci piacerebbe dare spazio anche a loro. Comunque vi terremo aggiornati. Benissimo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a tutti voi. Ciao Gabriella. Lei era Gabriella Gallozzi, responsabile del premio Bookchak Azione, presentato alle giornate degli autori in questa edizione 2013. Con lei abbiamo concluso l'appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. I riferimenti per quanto riguarda il sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari trovate la scaletta di quest'oggi con tutti gli ospiti, le uscite in sala di oggi giovedì 5 settembre, le nostre indicazioni, suggerimenti sui film già in sala a Roma e provincia, e poi film in TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, rassegne e proiezioni. Il link per riascoltare la puntata precedente e anche l'archivio del 2013 e 2012. Per quanto riguarda Facebook c'è la pagina Visionari e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.